La parola d'ordine è una sola! Categorica e impegnativa per tutti! Essa già trasvola ed accende i fuori dalle Alpi all'Oceano Indiano! Vincere! All'Italia, all'Europa, al mondo!